6. Ascolta e controlla. 1. Non ho la soluzione. Non ho le soluzioni. 2. La stazione è moderna. Le stazioni sono moderne. 3. La luce è accesa. Le luci sono accese. 4. La classe è numerosa. Le classi sono numerose. 5. La televisione è spenta. Le televisioni sono spente. 6. La situazione è complicata. Le situazioni sono complicate. 7. La madre è giovane. Le madri sono giovani. 8. La comunicazione è incredibile. Le comunicazioni sono incredibili.